Che se io fossi Bruto, e Bruto Antonio, qui ora ci sarebbe un Antonio che squasserebbe i vostri spiriti. Mi stupisco di parlare per incantarvi, mentre vorrei liberarvi per confondervi. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangeva. Letture di Radio 24. È possibile catturare con uno scatto fotografico il cuore del tempo? Al tema chiave dell'eternità che si realizza attraverso le immagini è dedicata la quarta edizione della Rassegna Fotografia Europea, che si svolgerà a Reggio Emilia dal 30 aprile al 7 giugno. Nella fotografia si materializza in immagini la plurimillenaria teoria filosofica, ormai quasi dimenticata, secondo cui l'eternità coincide con l'istante. Dalla fisica di Aristotele in poi, l'istante è infatti concepito come un punto geometrico, privo di spessore e indivisibile, attimo, da atomos. Non avendo estensione, è extraterritoriale rispetto al tempo, che non può essere costituito dalla somma di tanti attimi, perché aggiungendo zero a zero, si resta pur sempre a zero. L'istante equivale all'eternità, anch'essa fuori dal tempo, e la fotografia ha una miniatura di eternità sui generis. Adeguandoci al senso comune, noi facciamo discendere il concetto di eternità da quello di tempo, immaginando l'eternità come un tempo lunghissimo, esteso all'infinito. Eppure, se andiamo a guardare il significato di aion greco e del suo corrispettivo latino eternitas, vedremo che inizialmente aion designa la vita in plotino e in boezio vita e pienezza di vita, mentre il tempo, per così dire, è un'emorragia di vita, una perdita della sua pienezza, è povertà, bisogno, un rincorrere continuamente quella felicità perfetta che nell'esistenza terrena balugina solo per un attimo. Diversamente dallo specchio, che segue e accompagna le nostre trasformazioni, la fotografia congela gli istanti in una quasi eternità, in un passato che non passa e che, a differenza dei ricordi visivi, non impallidisce e si sfuoca con la stessa rapidità con cui si deteriorano o virano di colore i suoi supporti materiali. Il tempo esterno alla fotografia non viene negato nel suo scorrere, ma incatenato, costretto idealmente a cedere frammenti della sua sovranità. A differenza dei ricordi, la fotografia mantiene in gran parte la sua testarda fissità di testimone incorruttibile al mutare delle situazioni. È infatti illusorio credere che i nostri ricordi restino immutati nel tempo e che, se dimenticati, si tratti soltanto di ritrovarne la primitiva impronta. La memoria è una forza attiva, viva. Qualcosa, se mi si passa l'analogia, più simile al vino, cui gli enzimi conferiscono le proprietà di un organismo vivente che non all'acqua, sostanza minerale inerte a cui la fotografia maggiormente somiglia. Che la memoria abbia un carattere passivo, il che è contraddetto anche dal semplice fatto che l'esercizio la rafforza, lo si crede erroneamente perché si ritiene che il ricordo a caldo, quasi marchiato a fuoco, sia più vero di quello evocato in seguito, il quale risulterebbe impallidito o deformato. In questo caso si dimentica però che anche il ricordo a caldo è già un'interpretazione. In seguito esso viene riscritto varie volte, come su un palinsesto, e non sempre la prima interpretazione è la migliore. Anzi, più si procede verso l'elaborazione di ricordi densi e provvisti di un'eccedenza di senso, più si è in grado di riconoscerne una pluralità di sfaccettature immediatamente non percepibili. Sono soltanto i ricordi aproblematici, privi di intrinseca vitalità, quelli che non impegnano emotivamente o cognitivamente a non subire metamorfosi. La fotografia non dimentica, non costituisce una labile traccia del passato, ma, anche rispetto alla pittura, innesca un effetto di trascinamento di aspetti della realtà che, per quanto rielaborati, attestano la sua presenza. L'oggetto in essa non viene fagocitato dal soggetto. Guardare una fotografia significa sprofondare nel tempo e nello spazio, ritrovarne lo spessore del senso dietro la superficie piatta dell'immagine. La pittura e la fotografia condividono il tacito proposito di sottrarre alla morte un attimo di vita. Certo, dopo che l'obiettivo ha immortalato una determinata scena, le cose e le persone cambiano, si evolvono, invecchiano, muoiono, vengono distrutte, ma nella foto non cambiano più. Eppure in questa eternità immobile creata dalla tecnica, noi continuiamo a sentire il lavorio sordo del tempo, quello nostro e quello altrui, simultaneamente. Quest'ultimo perché nel contemplare le vecchie foto sappiamo in anticipo che quel personaggio raffigurato da giovane è ormai morto, o che in quella città o quel paesaggio sono stati distrutti dalle bombe o dagli incendi. Tale eternità nell'attimo non fa dunque, per altri versi, che ricordarci il trascorrere irreversibile del tempo, che conduce alla scomparsa di tutto ciò che vive. Come osserva Susan Sontag, tutte le fotografie sono un memento mori. Fotografare è partecipare alla mortalità, alla vulnerabilità, alla mutabilità di un'altra persona o di un'altra cosa. Precisamente con il ritagliare questo momento e nel congelarlo, tutte le fotografie testimoniano l'incessante sciogliersi del tempo. La nostra vita è indifesa, non ha mura che la proteggono dalla morte, e la fotografia che ne fissa un momento costituisce, per chi scompare, una magra consolazione. Ma per chi vive, il pericolo maggiore è che non solo le fotografie, ma la storia stessa si riduca in gran parte a mera oggettività pietrificata, a una serie di immagini non mediate dalla coscienza e non illuminate dalla decifrazione e dalla contestualizzazione del loro senso. Ciascuno di noi è, infatti, imprigionato tra le due date fatali della nascita e della morte, incastonato in una determinata epoca e cultura da cui non può materialmente uscire e che lo priva della piena consapevolezza della complessità delle altre vite e del mondo. La fotografia ci aiuta ad uscire da questa chiusura in noi stessi, gettando punti mentali e affettivi con altre esistenze ed altri aspetti della realtà. Da ognuna di queste esperienze visive che mettono in moto l'intelligenza e l'immaginazione, riceviamo un impulso a spalancare nuovi e inediti mondi. Esse inocularono in noi idee, passioni, sensazioni che altrimenti ci resterebbero precluse, inaccessibili. Per una sorta di geometria non euclidea psichica, inglobiamo pertanto, potenzialmente, infinite vite parallele alla nostra vita data. Avete ascoltato la lettura di un articolo di Remo Bodei dal settimanale Domenica, allegato al Sole 24 Ore in edicola oggi. Nel terremoto che ha colpito l'Abruzzo, Giustino Parisse, giornalista del quotidiano abruzzese Il Centro, ha perso il padre e i figli. Nel suo ricordo, la nuova tragedia si mescola a quelle del passato. Quanto era bella Onna quella notte, prima dello scossone orrendo. La luna rischiarava i vicoli, via dei calzolai, via Oppieti, via dei martiri, via Ludovici, via della Ruetta, via delle siepi. Dentro, mille anni di storia e milioni di storie. Uomini e donne che in quel piccolo paese, in fondo alla valle dell'Aterno, avevano costruito e amato. In quella orrenda notte abbiamo perso tutto. Le vite umane, le case. Il nostro paese. Non sentirò più gli odori. Da bambino a ogni passo c'era una stalla, sotto gli animali, sopra gli uomini. Nei giorni di festa il profumo del pomodoro fresco per fare il sugo rallegrava il palato ancora prima di consumare il pasto. E poi le voci, la colonna sonora di un paese di gente semplice. Quella notte, dopo lo scossone orrendo, le voci non c'erano più. Il dolore è tanto forte da spezzare le corde vocali. Quella notte era una bella notte. Nella mia casa c'erano due angeli. Erano nel loro lettino. Riposavano. Attendevo già il rumorio di un mattino normale, quando si alzavano per contendersi il bagno, la mamma che li chiamava, sbrigatevi, è tardi, la scuola vi attende. L'ultima carezza, l'ultima rassicurazione. L'orrendo scossone. La corsa verso quelle camerette, il grido spezzato. «Papà, papà! Domenico, arrivo, arrivo! Resisti, resisti!» Polvere, sassi, disperazione. Dall'altra parte della casa il grido della mamma. «Maria Paola è qui, lo sento! Un barlume, arrivo ad aiutarti!» No, è solo speranza. L'orrendo scossone non perdona. Nella notte sul tetto che non è più un tetto, l'abbraccio di un padre e una madre. Quella casa che diventa una tomba, la tomba dei sogni, la tomba dei tuoi figli per i quali hai lottato, e poi quella notte scopri che li hai solo portati nel baratro. È la tua storia che finisce, è la tua casa che sparisce, il tuo paese che non c'è più. Poi le luci del giorno, beffarde. C'è il sole. Sullo sfondo brilla il gran sasso. Gli uccelli cantano la primavera. Tu sei lì a guardare il vuoto. Arrivano gli amici, i soccorsi, e inizia il rosario della morte. Gabriella, Luana, Berardino, Susanna, Fabio, e poi ancora, ancora e ancora, fino a 38. Era quella la mia gente. È quella la mia gente anche nella morte. I miei bambini estratti dalle macerie. Nemmeno il coraggio di guardarli. La morte non deve avere un volto. La vita deve trionfare. Il ricordo è del sorriso, degli occhi pieni di gioia, non del ghigno mortale di una faccia disfatta. Mamma che si salva. Il volto insanguinato non lo riconosco. Papà è ancora seppellito sotto una montagna di macerie. Si lavora per portarlo via. Poi vado via anch'io. Fuggo dall'orrore. Fuggo dalla mia storia. Fuggo dalla mia vita. Tutto finisce nella notte dell'orrendo scossone. Non sento la radio, non guardo la TV. Poi qualche sera dopo incrocio con gli occhi l'immagine della chiesa parrocchiale. Lì si sono sposati mia madre e mio padre. Lì sono stato battezzato. Lì ho pregato con la mia gente la statua della Madonna delle Grazie. Mi dicono che devono portarla via. Era nella sua nicchia dalla fine del 1400, quando la mano ispirata dell'artista Carlo dell'Aquila l'aveva modellata. Siamo peccatori, ma figli tuoi. Maria di Grazie prega per noi. Il canto è risuonato milioni di volte. Almeno 20 generazioni di onnesi hanno toccato quella statua, l'hanno baciata e hanno sfiorato quel bambin Gesù che stringe forte forte tra le manine un uccellino. La Madonna se ne va, depositata dentro un container, terremotata anche lei. Tornerà, sì, tornerà quando le macerie risorgeranno. Via dei martiri non c'è più. Nel 1944 la mano cattiva dell'uomo l'aveva resa simbolo della sofferenza, dell'uomo che si accanisce sull'uomo. 17 onnesi, la mia gente, annientati dalla follia di una guerra senza senso. Quella strage mi ha perseguitato per 30 anni. Ho cercato di capire, di spiegare, di dare una ragione a quella violenza tanto assurda. Ho sperato anche di dare uno spunto per cercare giustizia. Oggi Via dei Martiri piange altri morti. Stavolta l'assurdo è il tremendo scossone. Tanti anni fa, scavando nella storia del mio paese, mi sono imbattuto nelle carte dell'archivio parrocchiale. Mi colpì una data, 2 febbraio 1703. Il parroco di quel giorno scrisse: ora sesta, orrendo scossone. La chiesa parrocchiale, per intercessione di San Piero Apostolo, è rimasta in piedi. Una sola persona è morta. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Giustino Parisse, Quanto era bella la mia Onna, da Il Centro, del 15 aprile.